Tra pochi giorni è Natale. A ricordarci che siamo nel pieno del periodo natalizio, le canzoni che si ripetono incessanti in radio, le lucette nei negozi, gli alberi colorati, i presepi, i regali, le commissioni snervanti da svolgere all'ultimo secondo per organizzare cene, cenone, festicciole e pranzi. Persino i servizi dei TG e gli articoli di costume dei quotidiani ripetono ogni anno le stesse identiche parole. E si ripetono, puntuali, ogni anno, richiamate dagli editoriali dei settimanali cattolici e dei pulpiti nelle omelie delle messe di avvento, le stesse parole, gli stessi richiami, a riscoprire il vero senso del Natale. Contro il consumismo, contro le tradizioni che hanno snaturato la seconda festa più importante dell'anno dopo la Pasqua, ma anche contro certe semplificazioni da cartoni animati della Disney che vorrebbero il Natale solo come una festa dove essere felice, stare in allegria, tanti buoni sentimenti politically correct e pochissima, nessuna sostanza. L'indiziato numero uno è lui, il panzone con la barba vestito di bianco, Babbo Natale. L'emblema di un Natale neopagano. Ma queste polemiche, per frequenza e intensità, negli anni sono venute immancabilmente a calare. Un po' perché criticare il Natale consumista quando i consumi crollano può apparire indelicato. Un po' perché gli stessi accaniti consumatori di un tempo tornano, anche per forza, a dover cercare un altro senso a questa festa. Possiamo farlo anche noi? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il fenomeno del consumismo mantiene un persistente orientamento verso l'avere anziché verso l'essere. Esso impedisce di distinguere correttamente le forme nuove e più elevate di soddisfacimento dei bisogni umani, dei nuovi bisogni indotti che ostacolano la formazione di una matura personalità. Per contrastare questo fenomeno è necessario adoperarsi per costruire stili di vita nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. È innegabile che le influenze del contesto sociale sugli stili di vita sono notevoli. Per questo la sfida culturale che oggi il consumismo pone deve essere affrontata con maggiore incisività, soprattutto se si considerano le generazioni future, le quali rischiano di dover vivere in un ambiente naturale saccheggiato a causa di un consumo eccessivo e disordinato. È con noi Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Marco. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, in questi giorni di feste, prima di parlare con il responsabile della pastorale sociale, voglio fare una domanda al sacerdote Don Marco. Qual è il vero senso del Natale e come lo spiegherebbe in breve a qualcuno che non sapesse nemmeno un H della nostra cultura? Ma il senso del Natale, per il cristianesimo è, diciamo, la festa che segna proprio l'inizio anche della conoscenza e dell'incontro di Dio in carne con il suo popolo, e quindi è proprio il segno di un Dio che vuole farsi conoscere, vuole farsi incontrare da vicino e che non resta così solo il creatore, l'onnipotente, ma vuole convincere il suo popolo che è una presenza reale, una presenza vicina, una presenza amica e che condivide con la vita dell'uomo e lo accompagna giorno per giorno. Effettivamente di questo che ha detto c'è poca traccia nei festoni, nelle pubblicità, nei regali di Natale. Negli anni è venuto o meno questo snaturamento a cui prima mi riferivo nel senso vero della festa del Natale? Ma io direi che il fatto che il tempo del Natale sia un tempo dove risaltano le luci, eccetera, non è che sia in contraddizione. In fondo Gesù è chiamato la luce, ecco, così nel Vangelo è la luce che viene nel mondo, e per cui di per sé il senso così originario anche di alcune manifestazioni esteriori, esterne del Natale che oggi le nostre città conoscono non è proprio del tutto in contraddizione. Il problema poi è come si è evoluto e come, insomma, sia stato un po' svuotato dal di dentro il senso originario, ed è rimasto solo l'involucro, che era anche buono di per sé, però in realtà è stato un po' inaridito dal di dentro. Ecco, io userei questa parola, si è un po' inaridito, insomma. Inaridito anche al fatto che, per esempio, le giovani generazioni crescano con un'idea di Natale magari che ha come simbolo non tanto Gesù Bambino quanto il Babbo Natale con la barba coniato dalla Coca-Cola? Sì, direi che, diciamo, questa favola che è un po' magica, che così è entrata un po' nelle nostre case, che di per sé niente faceva di male, però a un certo punto si è un po' sostituita a quello che è, diciamo così, invece l'icona vera del Natale, che è il Gesù Bambino. Questo è evidentemente sicuramente il frutto di una spinta molto forte di attori che avevano in mente, probabilmente in modo particolare, un interesse di tipo economico, però dall'altro lato è anche il frutto di una inaridirsi della fede. Adesso non saprei dire qual è la causa e qual è l'effetto, sono due cose che si alimentano a vicenda. Credo che il custodire l'icona del Natale sia un compito soprattutto della famiglia e della comunità. E è chiaro che poi anche la cultura può fare la sua parte, nel senso che quando una certa cultura anche vuole proprio toglierli via i simboli, ecco, cristiani del Natale, vabbè, è anche un aspetto ideologico che entra, però direi che più di tutto conta quello che la famiglia trasmette, quello che la famiglia vive in termini di fede, in termini di esperienza, ecco, spirituale. Appunto, prima di partire con un'analisi magari più generale, ci sono alcune idee che viaggiano soprattutto dal punto di vista delle famiglie di lasciare senza lavoro Babbo Natale e sostituirlo o con il San Nicola del 6 dicembre o con la Befana del 6 gennaio per, insomma, lasciare il Natale il posto che merita. Può essere una strategia utile e condivisibile? Ma adesso non so se si tratti, cioè la strategia secondo me deve essere soprattutto a livello di riappropriarsi dell'esperienza della fede. Non credo che fare queste strategie un po' così, di dire adesso i regali li porta San Nicola o la Befana invece che Babbo Natale, possa cambiare. Ecco, io in alcune regioni d'Italia c'è ancora la tradizione di San Nicola che porta i regali e poi c'è anche quella di Babbo Natale o della Befana. Ecco, credo che il punto nevralgico stia proprio nella prospettiva che ciascuna famiglia, che ciascuna comunità vive fino in fondo, ecco. Ne parliamo tra pochissimo, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito. Bentornati e buon Natale, carissimi ascoltatori di Blu Radio Veneto. Siamo all'ultima puntata del 2012, prima delle feste del Bene di Tutti Parliamone, e stiamo appunto parlando di Natale con Don Marco Cagol, delegato alla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per aver accettato il nostro invito, Don Marco. Ben ritrovati. Torniamo al Natale, un Natale che negli anni è diventato sempre di più, suo malgrado, un'occasione di consumismo sfrenato. Nel brano della Dottrina Sociale della Chiesa, più precisamente dal compendio, abbiamo visto come la Chiesa si opponga strenuamente al consumismo in quanto tale. Perché? Ma perché il consumismo significa, cioè è quel fenomeno per cui, diciamo che così, il consumo dei beni materiali, spesso anche molto voluttuario, molto, diciamo così, di beni anche sostanzialmente inutili, è un eccesso che è funzionale esclusivamente al mercato e che, proprio per la dinamica interiore che caratterizza ogni essere umano, cioè del rapporto tra i beni materiali e l'attaccamento ai beni materiali, invece quella che è la vita, diciamo così, di relazione o spirituale, ecco, è un dinamismo questo sempre molto, molto, diciamo così, ambiguo. Quindi avere impostato proprio tutto il vivere sociale sulla preoccupazione dei consumi e del consumismo va proprio a toccare, a far leva su una corda che nell'uomo è sempre molto, tra virgolette, così sul filo del rasoio, e alle ragioni del consumo si rischia di veramente di sacrificare tante cose anche importanti nella vita personale, nella vita sociale, nella vita comunitaria. E il consumo è, cioè il consumare beni è un mezzo per vivere, non può essere un fine né personale né della comunità né della società, è un mezzo il consumo di beni per poter poi perseguire fini che sono più importanti e più rilevanti nella vita. Le riviste di costume, i servizi dei telegiornali, ogni festa ricordano anche questa malinconia natalizia dovuta spesso alle corse, agli acquisti, al dover consumare, magari ci si trova con molti regali ma con poca sostanza. Però questo, allo stesso momento, ecco, i consumi sono comunque crollati a causa della crisi. Ecco, ha senso, mi perdoni l'estremismo in queste mie parole, fustigarlo anche in un periodo come questo? Ma io direi che va fustigato nei suoi eccessi, ecco. Il problema è che, cioè, il fatto che il crollo dei consumi dopo generi la crisi economica, ma diciamo che messa così è proprio un circolo vizioso, cioè consumiamo per lavorare e lavoriamo per consumare, senza contare poi che c'è anche un problema che oggi ci sono delle situazioni per cui veramente ci sono delle persone che non riescono a consumare nemmeno quello che gli è necessario, quindi cioè, è un discorso molto complesso, ecco. È banale sia, diciamo così, fustigarlo in maniera assoluta, in maniera drastica, però dall'altro lato neanche presentare la soluzione della crisi economica esclusivamente attraverso la strategia di spingere sui consumi sui consumi. Ci sono anche delle questioni molto, molto serie, per esempio la questione ambientale. Cioè i livelli di consumo che noi abbiamo sono sostenibili dall'ambiente e poi in certe parti del mondo questo consumismo che cosa genera, che cosa provoca, che cosa in qualche modo ha come conseguenza negativa. Cioè è un'affermazione molto semplice e molto semplicistica quella di dire che la crisi si risolve spingendo sui consumi e portandoli a livelli, diciamo così, precedenti. Ci sono delle altre variabili che devono entrare in gioco e credo che questo sia anche il senso della dottrina sociale della Chiesa, del brano che è stato letto. Quindi insomma un aumento indiscriminato dei consumi perché bisogna consumare, secondo lei comunque non porterebbe necessariamente a una ripresa dell'economia? No, cioè non necessariamente, oppure non è sufficiente come unico parametro da utilizzare. Per esempio si potrebbe parlare di qualità dei consumi oltre che di quantità dei consumi o di uguaglianza, cioè di equa distribuzione anche dei consumi all'interno del pianeta, di sostenibilità dei consumi. Cioè ci sono delle variabili che vanno assolutamente considerate proprio anche nel ragionamento strettamente economico e comunque senza dimenticare che nessun discorso economico può prescindere da quello che è la realtà dell'uomo. Se un discorso economico, pur avendo degli obiettivi che sono apparentemente anche coerenti e razionali, però va a toccare delle questioni profonde dell'essere umano, poi alla fine si rovescia nel suo contrario e si ritorce contro se stesso anche nei termini dei parametri economici, perché il non rispettare la giustizia e non rispettare l'uomo, comunque ogni danno umano è sempre poi alla fine, alla lunga, anche un danno economico, anche se apparentemente in un primo momento può non esserlo. Torniamo un po' più bassi, parliamo di qualcosa di terra a terra, insomma. Alla luce di tutto questo, possiamo farci regali a Natale? E se sì, sempre se sì, con che spirito? Ma allora, il senso del regalo del Natale è un senso, anche questo, come quello che dicevo prima sulla luce, è un senso vero, profondo, cioè come Dio si è fatto dono per l'umanità, così gli uomini si fanno doni tra di loro. È il momento in cui anche ci si esprime così una gratitudine per un anno che è passato, per una vita che si passa insieme, un modo simbolico anche di risaldare le relazioni. E secondo me le due cose che vanno evitate sono l'ipocrisia, cioè diciamo così lo si fa perché tutti lo fanno e però diciamo così non corrispondono quando sono regali vuoti, ecco, che non dicono la verità della relazione, ma sono solo un obbligo così sociale o convenzionale, allora questo non ha senso, diventa una parodia, un paradosso, come dire, una caricatura. E dall'altro gli eccessi, ecco, gli eccessi sono sempre nemici dell'equilibrio e anche della vera gioia per l'uomo, però non li demonizzerei in quanto tali, ma semplicemente, ecco, li direi che esprimano la verità delle relazioni. E dunque qua si potrebbe fare tutto un discorso su che relazioni viviamo nelle nostre famiglie, con i nostri amici, eccetera. E poi dico l'eccesso, quindi la sobrietà, ecco, l'equilibrio, il senso. Don Marco, grazie per le sue parole e le auguro buon Natale, e magari suggerisco anche ai nostri ascoltatori di rivivere anche quel senso di bontà anche verso gli ultimi, verso i poveri. Penso alle parole di Dickens nel suo Cantico di Natale: esseri umani insieme, tutti insieme nella stessa condizione, e poter camminare verso il nostro destino. La ringrazio e buon Natale ancora. Grazie, buon Natale a voi. E lei, dicendo questa cosa, ha introdotto anche un altro criterio: che i regali siano anche sempre attenti ai poveri. Buon Natale a tutti. Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente dall'8 gennaio sulle frequenze di Blu Radio Veneto dopo la Befana. Potete riascoltarci sul podcast sul nostro sito, potete contattarci, mandarci una mail per suggerimenti, consigli a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, ci sentiamo a gennaio, vi auguro un buon Natale e un felice 2013.